l'altra Europa. Buon sabato da Federico Taddia e benvenuti all'Altra Europa. Siamo qui come ogni sabato dagli studi di Milano di Radio 24 con il nostro viaggio alla scoperta di un'altra Europa, un programma in collaborazione con il network Euronet. Cerchiamo di respirare cultura europea e lo facciamo a nostro modo oggi, anzi con una puntata speciale, ovviamente dedicata al Natale. Ci trovate anche su Facebook, facebook.com/l'altra Europa, sono le nostre pagine ufficiali che aggiorniamo minuto per minuto, oppure su Twitter, @FedericoTaddia. Vi ho detto che avremo parlato del Natale, lo avremo fatto a nostro modo e con un viaggio con alcune delle musiche tradizionali dall'Europa. È un buon Natale cantato da dei bambini spagnoli e proprio dai bambini partiamo per celebrare questo Natale in chiave europea e in particolare dalla loro sicurezza. È una campagna europea, giocattoli più sicuri per i nostri bambini, quella voluta e quella promossa dal vicepresidente della Commissione europea, l'onorevole Antonio Tajani, che è qua con noi. Buongiorno Tajani. Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Allora, beh, è normale il Natale, pensare ai bambini, pensare ai giocattoli. Ci piace questa cosa in chiave europea, pensare alla loro sicurezza. E so che lei si sta appunto giocando, mi congeda questa parola, in prima persona finché non rimanga tutto sulla carta questa sicurezza, ma sia una campagna vera, una campagna operativa. Sì, abbiamo lanciato in tutta l'Unione Europea una campagna con l'adesione di migliaia di negozi di giocattoli perché si faccia conoscere bene la regola dell'Unione in materia di sicurezza in questo settore. E chiediamo la partecipazione di tutte le famiglie perché si possano regalare giocattoli sicuri ai nostri figli e ai nostri nipoti. Che cosa bisogna fare per avere un giocattolo sicuro? Intanto controllare che ci sia il marchio CE, che è un marchio che assicura il rispetto delle norme europee per la realizzazione del giocattolo stesso. Poi diciamo ai nostri genitori, ai nostri nonni di fare grande attenzione quando acquistano un giocattolo e vedere che la data, cioè che l'età sia giusta per il bambino al quale fanno il regalo. Perché spesso si rischia di regalare giocattoli a un bambino di 3 anni che sono adatti invece a un bambino di 5 e questo può essere pericoloso. E poi guardare anche se i giocattoli che si ricevono in regalo, magari usati da un cugino più grande, rispettino queste regole, che abbiano anch'essi il marchio CE e che siano adatti all'età del bambino che li riceve. In più è sempre bene gettare un'occhiata quando i bambini giocano soprattutto con giocattoli nuovi che non conoscono. Ecco, insomma, una serie di iniziative che stiamo adottando in tutta l'Unione Europea per far conoscere alle famiglie come possono contribuire alla realizzazione di una volontà dell'Unione Europea, di una norma dell'Unione Europea che deve garantire non soltanto la sicurezza dei nostri bambini, ma deve anche contribuire alla lotta alla contraffazione, quindi aiutare gli imprenditori per bene che realizzano giocattoli sicuri, e in Europa i giocattoli sono tutti realizzati rispettando le regole. Purtroppo non tutti i giocattoli importati dall'estero, soprattutto dalla Cina, rispettano sempre queste regole. aiutare anche i commercianti che vendono giocattoli sicuri, ecco. Quindi un'azione forte anche a sostegno dell'economia reale, quindi dei commercianti e degli imprenditori, grandi, piccoli e medi, che si impegnano per rispettare le regole dell'Unione Europea e naturalmente devono anche essere tutelati e garantiti. Una presa quindi di responsabilità e una presa di consapevolezza collettiva, no? Perché si parte da piccoli gesti che però, appunto, come ci ha spiegato, hanno forti ricadute. Ci stava dicendo dal prossimo anno? Prossimo anno lanceremo un vero e proprio piano d'azione con tutte le dogane dell'Unione Europea per rinforzare ancora i controlli sia all'ingresso dell'Unione. Io sono stato al porto di Rotterdam qualche mese fa, quando è entrata in vigore la nuova direttiva sulla sicurezza dei giocattoli dell'Unione Europea, ma dobbiamo fare in modo che tutte le dogane europee controllino quando entrano i nostri giocattoli importati, perché non ci siano magari in mezzo a giocattoli che rispettano le regole e giocattoli che non le rispettano. E quindi, insomma, serve una collaborazione di tutti quanti: Unione Europea, Stati nazionali, dogane, famiglie e negozianti. Insomma, un'azione collettiva. Ma Tajani, lei se lo ricorda un giocattolo che ha ricevuto in regalo a Natale da bambino? Beh, per fortuna ne ho ricevuti parecchi, ma naturalmente, siccome sono come tutti gli italiani tifosi di calcio, quello che mi piace di più fu un biliardino che mi regalarono e rimase per tanti anni a tenermi compagnia. Un oggetto cult. E ringrazio il vicepresidente della Commissione Europea Antonio Tajani per essere stato qua con noi. Ha un augurio particolare per la nostra Europa? La nostra Europa, quella di essere più Europa, sempre più Europa e sempre meno egoismi nazionali, perché soltanto se saremo più uniti potremo farcela, perché se non siamo uniti i nostri competitori rischiano di metterci in una condizione di grande difficoltà, il partito della speculazione rischia di avere la meglio su una realtà come quella dell'Europa, che invece può essere altamente competitiva e può avere un futuro prospero. Questo è l'augurio che io rivolgo all'Europa e a tutti gli europei, ecco, perché contribuiscono anche loro a questa grande battaglia contro la speculazione per la crescita economica. Grazie davvero e buone feste. Grazie a voi, auguri, buon Natale a tutti. Europost-it. Un Natale da pazzi. In tanti paesi d'Europa il Natale è anche l'occasione per impazzire e celebrare le feste con giochi matti e divertenti. A Ibi, in Spagna, il 28 dicembre è la festa degli infarinati. I partecipanti si travestono con finte divise militari e celebrano un colpo di stato a base di uova, farina e petardi, eleggendo uno di loro a sindaco per un giorno. Siete curiosi? Andate su ibi.es. In Scozia, a Stonehaven, invece, si festeggia la fine dell'anno con una sfilata di palle di fuoco, fatte roteare vorticosamente in aria da dei veri maestri di temerarietà. Trovate più info su stonehavenfireballs.co.uk. A Bournemouth, in Inghilterra, altrettanto temerari e appassionati di nuoto si ritrovano la mattina di Natale per farsi una nuotata nella manica, in costume o addirittura con i vestiti più buffi che sono riusciti a trovare. Se volete unirvi alla banda di matti, openwaterswimming.eu. L'altra Europa. In Europa oggi anche attraverso le canzoni di Natale, questo brano ci porta in Grecia, perché Grecia l'emblema della crisi, un Natale triste, un Natale che viene raccontato nella sua recessione da tanti giornali anche in questi giorni, e a noi piaceva raccontare una storia, dare un'immagine reale di cosa di cosa voglia dire vivere il Natale quest'anno in Grecia, e per farlo abbiamo invitato Lambros Polizois, parla italiano, è un ingegnere, però ha perso il suo posto da ingegnere ad Atene, ingegnere elettronico, e per ora ha trovato come lavoro, fa la guardia notturna, e con lui appunto volevamo avere un assaggio di questo Natale 2011. Buongiorno Lambros, ciao. Buongiorno a lei e ai vostri ascoltatori. Grazie. Tra l'altro Lambros, subito una curiosità, tu come hai imparato l'italiano? Sono autodidatta, senza un insegnante. Mi è piaciuta molto la lingua e quindi ho imparato la lingua italiana. So che sei un appassionato di musica italiana, hai ascoltato molto i cantanti italiani. Molto. Da quale cantante hai imparato? Mi piacciono tantissimi, sia vecchi che di questi giorni, di oggi. Lambros, la tua è una storia abbastanza emblematica, molto significativa di quello che è accaduto in Grecia in questi mesi, di quello che sta accadendo. Tu sei un laureato, hai avuto un posto da ingegnere, però a causa appunto della crisi hai perso il lavoro e adesso hai dovuto ripiegare facendo la guardia notturna. È comunque una storia fortunata, perché un lavoro l'hai trovato? Sì, perché io sono rimasto disoccupato per un anno. Mentre cercavo un posto di lavoro nel mio settore, e poi ho visto che perché ne avevo una esperienza di 5 anni, ho visto che nessuno mi prendeva nemmeno per un colloquio, e quindi ho deciso di trovare un posto di lavoro di ogni cosa, di ogni settore, perché non mi piaceva rimanere senza lavoro, e quindi ho trovato questa e sono lì per un anno circa. Perfetto. Lambros, che Natale si sta vivendo in Grecia, ad Atene? Ovviamente lì le feste, è il Natale ortodosso, quindi verrà festeggiato il 6 gennaio, però il clima è già quello prenatalizio. Si sente, si vede la crisi? Molto, parecchio direi, perché la gente può uscire ma non compra niente, perché la crisi economica ci ha spaventato tantissimo, ci hanno tagliato i soldi e gli stipendi, molte tasse, quindi la gente è molto deluso, e purtroppo questa crisi non finirà presto, perché la Grecia può essere un paese del turismo, un paese della cultura antica, ma ormai non è molto forte, ha i suoi problemi. Purtroppo siamo rimasti in una situazione molto bassa, quindi i negozi chiudono giorno per giorno. Quindi i negozi che chiudono, mercatini in cui non si vende niente, questo è il racconto, la testimonianza. E l'umore della gente qual è? Resiste comunque appunto in questo carattere molto forte, che è il carattere dei greci, o anche l'umore comunque tende alla depressione? Sono alcuni greci che sperano che questa situazione cambierà presto. Io non sono ottimista, perché come vedo, molti greci, soprattutto giovani, quando finiscono l'università, dicono che io vado all'estero a lavorare perché nel mio paese non trovo niente. Purtroppo sì, la situazione è un po' così, cioè una situazione che la gente soffra qua e va all'estero per trovare un giorno bello, un giorno migliore. Lambros, grazie davvero per la tua testimonianza. Tu dove andrai a passare il Natale? ci vado a Sparta, una città del Peloponneso storica. Certo, la conosciamo. Storica dall'antichità. La conosciamo, sì, bene. Sì, sì. Grazie davvero ancora e buone feste comunque. Buone feste a lei e ai vostri ascoltatori. Ciao, grazie. Europost-it. Quando c'è la crisi, il Natale si ricicla ma con creatività. Non si fa che parlare di crisi economica, di tagli, di sacrifici, ma avere pochi soldi non significa dover rinunciare agli addobbi natalizi. Basta usare un po' di fantasia. Lo sa bene Jolanta Smith-Tiene, l'artista lituana che ha realizzato per la città di Kaunas un albero di Natale unico nel suo genere. Per non dover andare a chiedere soldi alla città, Jolanta ha pensato bene di aguzzare l'ingegno. Usando 40.000 bottiglie verdi di plastica riciclata, ha costruito un abete alto 13 metri, il più alto del mondo di questo genere, che di notte viene illuminato a festa. L'albero di Natale low cost è stato sistemato proprio di fronte al municipio di Kaunas e una volta attivato irradia una luce verde smeraldo che fa invidia alle installazioni più costose e spettacolari. Se avete in programma di fare un salto in Lituania, visitate il sito web kaunas.lt e preparate la macchina fotografica. E questa è un po' la colonna sonora di questa puntata prenatalizia. Abbiamo chiesto a tanti dei nostri ospiti di mandarci quelle che sono le musiche tradizionali un po' di tutta Europa. Questa, per esempio, arriva dalla Polonia. Vi ricordo facebook.com/l'altraeuropa, la nostra pagina ufficiale, dove carichiamo, postiamo minuto per minuto tutti i link relativi agli argomenti toccati e anche appunto le segnalazioni dei post-it. In questa puntata volevamo anche dedicare un piccolo spazio a una notizia di qualche giorno fa ed è la morte di Havel, l'ultimo presidente della Cecoslovacchia, il primo presidente della Repubblica Ceca, prima che politico, poeta, artista, comunque uno dei padri spirituali e non solo dell'Europa, quindi ci sembrava doveroso dedicare appunto un pensiero e non solo anche a lui. E per farlo abbiamo invitato un giornalista italiano, un giornalista, un saggista, uno storico, una persona che da anni si batte in prima linea a favore dei giusti, e fra pochissimo capiremo cosa intendiamo per giusti, perché lui l'ha conosciuto, Havel, l'ha frequentato. Una sua intervista di pochi giorni fa sul Corriere della Sera ricordava anche di queste riprese, di questo documentario, di questo tempo passato con lui. Diamole benvenuto a Gabriele Nissim. Ciao Gabriele. Salve a voi, salve. Buongiorno, qua. Grazie per aver accettato il nostro invito. Mi ha molto colpito perché davvero stavo cercando una chiave per raccontare Havel, non bastano pochi minuti ovviamente, e sono rimasto molto colpito da questo tuo incontro che hai raccontato sulle pagine del Corriere della Sera, un incontro che poi è stato un seme perché vi siete frequentati forse a distanza ancora per anni. Ecco, sì, conobbi Havel con una piccola macchinetta Sony, una delle prime macchinette telecamere televisive portatili, no? Che così potei passare la frontiera e così fare poi con lui tutto un servizio su quello che era l'attività di Carta 77, no? E allora diciamo un po' così da quell'incontro si è creata anche una sorta di anche di amicizia spirituale. Fra l'altro poi l'ho ritrovato poi in altri tre momenti, no? Sia quando lui stava guidando, no, la rivoluzione dell'89, le prime manifestazioni, anche lì avevo documentato i primi incontri dei giovani su in piazza della Città Vecchia, no? Fra l'altro era interessante perché fino ancora qualche mese prima, se voi andavate in piazza Città Vecchia, c'erano più poliziotti in borghese che turisti, no? E questa piazza poi si era riempita di centinaia e poi di migliaia di persone che portarono poi alla presidenza di Havel alla Repubblica con la fine del comunismo, no? E Havel poi così è stato, vuoi dire, anche un mio punto di riferimento morale nei miei libri. Anche l'ultimo libro che ho scritto, La bontà insensata, è dedicato a lui. E proprio diciamo qualche giorno fa ci sono delle situazioni quasi, non lo so, quasi un presagio, io gli avevo scritto una lettera per chiedergli di aderire alla proposta del Parlamento europeo che io ho formulato di istituire una giornata internazionale dei giusti, una giornata dei giusti che ricordi tutti gli uomini che hanno lottato per la dignità umana sia nel nazismo e sia nel comunismo. E eravamo appunto d'accordo con la sua segretaria che Avel avrebbe aderito e ci avrebbe anche mandato un intervento. Era malato, mi ha detto: guarda, Avel non difficilmente verrà al Parlamento, sta molto male, però ti manderà un messaggio. E poi domenica ho avuto appunto la notizia della sua scomparsa. Certo. Gabriele, ma secondo te qual è un... Cosa ha lasciato all'Europa Havel o qual era anche il pensiero che Havel aveva dell'Europa? Hai un ricordo al riguardo? Ah beh, prima di tutto c'è una cosa che in quegli anni a Praga quelli che erano gli oppositori, i membri della Carta, ricordo il grande filosofo Patočka, che con Havel poi stese la Carta nel 77, no? E si rifacevano ai valori della cultura europea, dicevano: qui la cultura europea è morta, la manipolazione comunista e il totalitarismo hanno negato la dignità della persona e dell'individuo. Allora l'idea era di ricostruire la società civile e di ricostruire il pensiero libero delle persone, e questo era considerato un valore della cultura europea, della cultura greca, della cultura romana, della cultura ebraica, no? Quindi si sentivano europei per affermare la loro battaglia per la dignità contro il totalitarismo. Ok, mi sembra un bellissimo pensiero, e ci piaceva anche ricordare oggi, insomma, in questa giornata, prima del Natale, tutto il tuo lavoro a favore dei giusti, sul quale torneremo sicuramente nelle prossime puntate qui all'Altra Europa, perché vogliamo seguirti, insomma, in questa tua importantissima iniziativa. Ciao Gabriele, grazie e buone feste. Arrivederci a voi. L'Altra Europa. E ancora buon sabato da Federico Taddia, un buon Natale in musica con le musiche prese da tutta Europa, ma adesso andiamo a fare un viaggio in Europa e lo facciamo con alcuni ragazzi che stanno frequentando l'anno scolastico all'estero. E sono ragazzi che frequentano e che hanno partecipato ai progetti di Intercultura, la ONLUS, nata per costruire il dialogo interculturale, e lo fa proponendo appunto questi scambi scolastici. Quest'anno sono 1600 gli studenti italiani del terzo e del quarto anno delle superiori che hanno trascorso o stanno trascorrendo un periodo all'estero. Intercultura.it è il sito per tutte le informazioni, e abbiamo scelto di andare a far visita ad alcuni di questi ragazzi per capire, per scoprire anche come stanno vivendo il Natale e le feste in generale, appunto, lontani da casa. La prima tappa è la Norvegia, con noi Samuele Curzio da Ivrea. Ciao Samuele. Ciao. La Norvegia è grande, localizzati, dove sei? Sono all'estremo nord, sono a 250 km da Capo Nord. Te lo sei scelto tu il posto? No, però mi va bene, quindi. è molto esotico, fa anche un po' impressione. La prima domanda sarà, è freddissimo? Ma quest'inverno non troppo, perché, è strano. Però sì, adesso c'è meno 10, sì, fa freddo, però ci si copre. Ok, ma e abiti in un villaggio, in un paese, in una città, dove? È una città, ha 20.000 abitanti, non è grossissima, però comunque è una città, perché qua nei paraggi non c'è moltissimo altro. Ok. Il comune è grosso come la Val d'Aosta. Ok, e hai scelto la Norvegia perché? Ma io sono sempre stato un po' ispirato dalla Scandinavia, dal nord dell'Europa, e quindi ho messo nelle mie scelte dei paesi dove si poteva andare, ho messo paesi della Scandinavia, e poi Intercultura sceglie dove mandarti in base alle disponibilità e altre faccende. Allora adesso arriviamo anche a raccontare il Natale, però prima dici come sta andando questa esperienza? Ah boh, sta andando bene. Inizio a parlare in norvegese, quindi va bene. Okay. Non hai nostalgia di casa? Ma no, nostalgia no. Okay. Ogni tanto pensi, ah guarda, questa cosa qua ci vorrebbe quel mio amico per farla, però non è che ci soffri. Ok, va bene. Raccontaci il Natale che stai vedendo lì, è molto diverso da quello italiano, è già colto qualche tradizione tipica, facci una cartolina del Natale norvegese. Ma la cosa principale è che loro lo festeggiano il 24, cioè fanno la vigilia. Sì? Fanno tutta la vigilia, il 25 non fanno niente, si rilassano. Mm-hmm. Non è moltissimo diverso, lo passano con i parenti, fanno i cenoi, sono molto tradizionalisti, hanno tutte le tradizioni su cosa mangiare, su ma c'è un piatto c'è un piatto tipico che hai scoperto, contraddistinguere in maniera particolare il Natale? Ma mangiano, tipo noi probabilmente mangeremo le ripe, che sono degli uccelli che vanno a cacciare, che tipo in questo caso li ha cacciati mio padre. Ok. E poi hanno tutti i dolci natalizi e queste cose qua. Ho capito. Babbo Natale c'è? C'è? Sì. Sì, c'è. Tipo l'elfo di Natale. È l'elfo di Natale, ok. Sì, e con i bambini arriva proprio fisicamente. Perché penso che, per quanto ho capito, non è che c'è un Babbo Natale che viene di notte. E ci sono proprio questi elfi che sono proprio nella tradizione norvegese che vivono tipo, nascosti nei granai o queste cose qua, che portano proprio i regali, fisicamente. Okay, ti ho sentito. Quindi quando chi ha i bambini piccoli di solito c'è qualcuno che fa proprio l'elfo e che gli dà i regali. Ma hai già capito che ti toccherà fare l'elfo questa notte o no? No, okay, perché i miei fratelli sono grandi, quindi non ne abbiamo bisogno. Ti è andata bene. Grazie davvero, buone feste a te e a tutta la tua famiglia che ti accoglie e in bocca al lupo per questa bellissima esperienza. Ciao! Buon Natale. Ciao, buon Natale a te e buon Natale anche a Pietro, è di Parma ma in questo momento si trova in Danimarca. Ciao Pietro. Ciao, buona mattina. Ciao, buon sabato. E tu dove sei? Io sono in Danimarca a 40 minuti da Copenaghen. Sì. E anche per te, anche per te la domanda di rito, come mai hai scelto la Danimarca? Ma non lo so, è stata una cosa un po' al caso. Avevo chiesto per gli Stati Uniti e la Svezia prima, sì. E poi Danimarca, mi è stata assegnata la Danimarca, ma più che altro per il mito dei paesi nordici, i paesi civilizzati. Certo, e come mai che hai scelto di fare un periodo del tuo anno scolastico all'estero? Cosa ti ha spinto? Non so, mi sembrava che a 20 anni avevo questa occasione di passare un anno della mia vita un po'... in un modo un po' diverso e in un modo che da quanto mi era stato detto era fantastico, che ti lasciava veramente un segno dentro. E hanno avuto la possibilità e ho detto di sì. Mi sembra, poi, non so, fare un altro anno in Italia nello stesso posto così mi sembrava un po' noioso. Ok, e per ora le tue aspettative sono state confermate? Sei contento della scelta fatta? Io sì, sono assolutamente contento. Non è una cosa semplicissima perché... le difficoltà ci sono, ma rimango convinto che sia stata un'ottima scelta. Perfetto. E questo Natale danese, che colori ha, che odori ha, che sfumature ha? Allora, io sono rimasto veramente stupito da quanti, come hai detto tu, colori e profumi ha questo Natale, perché veramente è molto diverso da quello italiano, perlomeno come lo vivevo io. È un Natale che incomincia dal primo giorno di avvento, sì. Cioè 4 settimane prima, e incominciano tutte le decorazioni, non l'albero di Natale, ma incominciano tutte le decorazioni, i colori per le città, i comuni mettono in piazza il loro proprio albero con le luci, tutta una gran festa, e ogni giorno dell'avvento è, diciamo, celebrato con una candela dell'avvento che si accende ogni sera, che segna non le settimane ma ogni giorno proprio, e poi la sera in TV c'è una serie televisiva che racconta una piccola storia sul Natale, tutti gli anni diversa. Sì. Ma è molto carino. Quindi insomma una partecipazione collettiva, mi sembra una cosa quindi molto, molto sentita. E ci sarà il cenone, ci sarà il pranzo di Natale, cosa ti aspetta tra oggi e domani? Allora, oggi faremo una via di mezzo tra un cenone e un pranzone, possiamo dire. È una cosa che parte dalle 6 con qualche amico di famiglia e la famiglia, ma non è una cosa così grande. Il 25 poi faremo un giorno di pausa perché saremo tutti pienissimi. Sì. E il 26 invece ci sarà il cenone di Natale, che dura dalle 2 di pomeriggio fino a mezzanotte e passa, mangiando. Quindi sì, mi aspetta qualcosa di veramente grosso. Sì, ti aspetta un triduo impegnativo, però insomma è un'esperienza anche questa, quindi la devi fare, sei lì per appunto sì. Vivere la cultura e assaggiare la cultura del danese, quindi ci vuole una grossa pancia. Assolutamente. Grazie davvero Pietro, complimenti per la tua scelta e in bocca al lupo per i prossimi mesi, e buone feste a te e a tutta la tua famiglia. Ciao. Ok, anche a lei. Ciao ciao. Ciao. Весь год трудился я не зря, пора в дорогу мне. Последний лист календаря остался на стене. Последний лист календаря остался на стене. Чтоб елочка под Новый год надела свой наряд. Игрушки я беру в поход, подарки для ребят. Игрушки я беру в поход, подарки для ребят. E con questo tipico brano russo andiamo in Russia, andiamo sul Mar Nero, dove sta facendo il suo periodo di scambio scolastico all'estero Federico Negro di Borgo Dale, in provincia di Vicenza. Ciao Federico, buon sabato. Ciao. Ciao, come stai? Bene, bene. Insomma, la tua... Ciao, per fare il Natale. Una scelta tosta quella di andare in Russia, ma tu conosci il russo, lo studi a scuola? No, io non ho mai studiato prima, solo 2 settimane prima di partire per sapere qualche parola e non trovarmi senza sapere proprio niente. E come sta andando questo tuo anno scolastico? Tu fai il liceo scientifico tecnologico in Italia, lì ti stai integrando? Sì, più o meno facciamo gli stessi argomenti a scuola e quindi non ho grossi problemi, il russo lo sto imparando. Adesso riesco a comunicare con la mia famiglia, i compagni, gli amici, tranquillamente. Mi hanno scritto un po' di curiosità che credo tu abbia raccontato per preparare l'intervista. Devi cambiare le scarpe quando entri a scuola? Sì. Come mai? Perché è una danza russa e così, per non sporcare la scuola e tenerla pulita. Perché comunque anche siamo noi studenti a pulire la scuola e tutto. I bidelli sono 3 o 4 a scuola, sono molti. Ho capito. E anche da voi appunto si festeggerà, immagino, il Natale ortodosso, però per te invece Natale è domani, è il 25. Hai colto qualche tradizione particolare? Già si sente l'aria di festa? Sì, si sente l'aria di festa per il Capodanno, perché qua il Capodanno è una festa molto grossa. E come il Capodanno e il Natale nostro messi assieme. C'è qualche simbolo? Dimmi. Sì, c'è Babbo Natale, come da noi, che porta i regali. Snegurečka, che è l'aiutante donna di Babbo Natale. Ah sì, ma è tipo la Befana? Sì, E quella che porta la neve, il freddo. Ho capito, ammetto l'ignoranza, non conoscevo questo personaggio. Federico, grazie davvero anche a te, in bocca al lupo per le prossime. Quando tornerai in Italia? Io tornerò a fine giugno. Ah, ok, quindi insomma, terminata la scuola, ancora 6 mesi lì sul Mar Nero. Buone vacanze, buon Natale, sì. Intanto, ciao. Grazie. Ciao. L'altra Europa. Anche una canzone tipica della Catalogna in questa puntata dell'Altra Europa che anticipa il Natale. Stiamo conoscendo il Natale in giro per Europa, lo stiamo facendo con alcuni ragazzi che stanno frequentando l'anno scolastico all'estero con Intercultura. Torniamo in Norvegia, qualche centinaio di chilometri più a sud, però non siamo più nella zona capo nord. Con noi da Parma Pietro Barazzoni. Ciao Pietro. Ciao. Ciao, buon sabato. Mi dicono alias Pepi Hohae? Ah, sì, ok. No, adesso è la mia mail, sì. Perché qui in Norvegia nell'alfabeto hanno 3 lettere in più che noi non abbiamo, che trovo siano molto belle, e quindi niente, le ho piazzate così nel mio nome della mail. E dove ti trovi in Norvegia, di preciso? Io sono nei pressi di Lillehammer, precisamente Vestergausdal. Ok, prima mentre eri in attesa so che Filippo in regia ti ha sgridato perché stavi camminando, prova un po' a camminare. Ah, ok. Ok, questa era la neve che si trova sotto i miei piedi, ho mezzo metro di neve sotto i piedi io. Ecco, che quello è un po' il panorama tipico in questo periodo. Esatto. Come è stata accolta questa neve? Ah, è stata accolta con un'esplosione di gioia, assolutamente. Io sono un amante enorme della neve e sì, quando ha iniziato 2 o 3 settimane fa a nevicare, che è venuto giù a Badilate, è veramente stato una gioia infinita, sì. Poi io sono un amante dello sci e quindi è stata ancora doppia gioia perché sì, non vedevo assolutamente l'ora di poter andare a sciare e vedere bianco dappertutto. Pietro, anche per te la domanda che sta accompagnando tutti voi studenti, come mai che hai scelto un'esperienza di questo tipo? Ma perché avevo voglia di staccare un po' sì, quella mia vita parmigiana e provare ad andare a scoprire un pochettino cosa c'era fuori dai nostri confini italiani. Mm-hmm. Avevo voglia di venire a scoprire i paesi del nord perché sono quelli... Sono sempre stati un mio chiodo fisso nella testa, soprattutto in particolar modo la Norvegia, e quindi Intercultura era il mio, diciamo, quello che poteva darmi la possibilità di venire a vedere quei posti che fin da bambino avevo nella mente. Certo, ecco, fallo scoprire anche a noi allora questo ambiente, questa nuova cultura che ti ha accolto. Com'è il Natale lì? Cosa ti aspetta in questi giorni? Cosa stai vivendo? Cioè, assolutamente dimenticatevi il nostro Natale, cioè qua lo sentono che fa veramente paura come sentono il Natale qua, davvero lo sentono, c'è mia mamma che è da metà di novembre che ha iniziato a decorare la casa, da metà di novembre che sforna a manetta dei biscotti, ciambelloni, di tutto, e quindi sto praticamente pian pianino prendendo quei tanti chili aspettati. E sì, è veramente stupendo, c'è la casa che è tutta, è veramente dipinta da capo a piedi, e ovunque tu vada vedi centinaia di alberi illuminati, fuori, dentro, dovunque, e vedi tutte queste persone veramente che sentono il Natale, vedi i negozi che sono veramente dipinti in un modo magnifico. Mm-hmm. E poi ho la fortuna di avere a Lillehammer uno dei Natali, insomma, tra i più belli della Norvegia, perché Lillehammer è una cittadina non troppo grande e per questa sua peculiarità la strada più grande che passa in mezzo alla cittadina, quando è tutta innevata, ha questa particolarità, questo particolare calore natalizio. Sì, immagino, insomma, uno spettacolo, poi ti avvolge, davvero... ti avvolge questo clima. Ma qual è la giornata clou? Oggi la vigilia, domani Natale, Santo Stefano, c'è una giornata più importante delle altre? Qua festeggiano un po' più a lungo rispetto a quello che festeggiamo noi, hanno tradotto in italiano, hanno la sera di Natale che è la nostra vigilia, il 24 sera. Sì, questa sera. E poi hanno il primo, secondo e terzo giorno di Natale, che sono 25, Santo Stefano, e il 27. Ah, hanno aggiunto un giorno quindi alle feste tradizionali nostre, diciamo, anche il 27. Esatto, anche il 27, e insomma diciamo che però scarrozzato un pochettino in giro fra i vari parenti, mangia di qui, mangia di là, quindi cioè, insieme ai dolci che ho mangiato fino ad adesso, ovviamente ci cioè, incrementiamo ancora di più la... Sì, la massa grassa che mi sta avvolgendo. Insomma, è un grasso Natale quello che ti aspetta, Pietro. Grazie davvero per le tue descrizioni, molto belle. Sembrava quasi di essere lì, e in bocca al lupo anche a te per i prossimi mesi, che sia un'esperienza davvero, davvero importante, davvero travolgente. Ciao e buon Natale. Grazie infinite, ciao altrettanto, buon Natale. E con questa canzone, non tanto dedicata al Natale quanto a Santa Lucia, ma fa sempre parte delle feste, andiamo in Svezia per scoprire la strana iniziativa di un sacerdote che, per avvicinare i giovani alla messa, si è inventato la techno messa. La techno, la musica techno che tanto piace, che tanto si balla, è stata utilizzata da questo sacerdote per invitare in chiesa i giovani fedeli, e avevamo la nostra inviata a messa. Lei è una insegnante di scuola superiore svedese, insegna letteratura svedese e italiano, si chiama Karin Loftoft ed è andata a messa per noi. Ciao Karin! Ciao, ciao, buonasera. Hai ballato o hai pregato? No, ho ascoltato. Hai ascoltato, va bene, te lo concediamo. Faccela vedere, cos'è successo in questa messa? Che cos'ha di così particolare? Sì, è stata un'esperienza straordinaria, perché è una messa di interpretato, e voglio dire, è tutto di musica techno. Quindi è una messa normale, c'è una celebrazione, però le musiche, invece di essere quelle canoniche, è musica da discoteca. Giusto, è di musica techno. Uh-huh. Ma voglio dire, gli autori hanno interpretato la parola di Dio, ma hanno tradotto tutte le parole in canzone e di musica. Allora, siccome queste musiche, questa messa è anche su myspace.com/technomassan, e abbiamo pubblicato il link sulle nostre pagine in Facebook, ascoltate un po', questa è la tecnomessa. Dalla Svezia la tecnomessa anche qui a Radio 24. Karin, una bella esperienza. Qual era lo sguardo, qual era la partecipazione dei giovani, dei fedeli? Funziona come idea? Sì, secondo me funziona, ma l'idea degli scrittori di non sedurre persone per attirarli in chiesa, ma invece di dividere la loro interesse musicale e religiosa. Mi hanno raccontato che la loro prima domanda era: cosa piace a noi? Sì. Che tipo di musica piace a noi e che cosa potremmo intermediare agli altri? Questa è la loro idea. Poi nel progetto sono coinvolti più di 50 giovani che cantano e interpretano la loro musica. Certo, quindi insomma non una provocazione, ma proprio un nuovo modo per avvicinare la fede ai giovani. Grazie davvero per questo racconto, e buon Natale, buone feste anche a te, Karin. Grazie altrettanto, ok. Buon Natale. Ciao, grazie a te. Buon Natale anche a tutti voi, da tutto lo staff dell'Altra Europa, Margherita Ina, che come ha scritto la puntata, con la collaborazione di Viola Frifa, e Filippo Aureggi oggi alla parte tecnica, e anche da lui. Buon Natale a tutti voi. Noi ci ritroviamo qua sabato prossimo, come sempre, alle 10 con l'Altra Europa. Ancora ciao, da Federico Taddia.